si fa uno, e quello dalla macchina, immancabilmente. Addirittura in quel periodo lo portavo anche appresso in macchina, no? E siccome io quando lavoravo per le commissioni così veloci avevo anche una motoretta, un Vespino, era una Vespa 50, avevo buccato il parafango davanti, ci avevo messo l'antenna davanti a falegnameria con l'antenna, con la frusta nera, parlavo addirittura con Villanova Monteleone, cosa che oggi è impossibile parlarci, perlomeno in questa frequenza, a meno che non ci sia più nessuno, sarà per quello anche, non lo so, però parlavo io dalla Vespetta, l'antenna sul parafango della Vespetta 50, con la frusta nera e con quel baracchino parlavo con Villanova Monteleone, io proprio da rimanere così a bocca aperta per la potenza di questo baracchino, che poi non era così potente, vabbè, allora in quel periodo l'etere era pulito, non è come oggi è carico di segnali di ogni genere, TV, radio private, eccetera eccetera, ma allora era possibile fare anche questi collegamenti. Vai Gianni. Appunto, allora non c'era inquinamento atmosferico, certo, adesso che parlavo col portatile, con Alghero, basta dire quello. Con quel portante scali, pure io parlavo con Alghero, figurati, vabbè che c'era un'antenna che era più alta di me, avevo un'antenna enorme, partiva grossa e poi finiva fino a fine, ma l'antenna era in acciaio, non come chi si riavano. Io lo so, io avevo anche la Piede 800, avevo, ma allora in quel periodo avevo la Pusanella nella Piede 800, poi l'avevo comprata successivamente e la utilizzavo sulla macchina, dunque non andavo bene. Poi alla fine, ce l'avevo sino a poco tempo fa la Piede 800, poi l'ho regalata ad un amico che è venuto qua e mi aveva installato una di quelle pennette al computer per sentire tutte le frequenze, anche radioamatori eccetera, e io in compenso per debitarmi gli ho regalato l'antenna nuova nuova, la Piede 800, che era proprio bella, di lusso veramente, è stato contentissimo tranquillamente e suppongo che ce l'abbia ancora, poi non lo so, saprà lui quello che l'avrà fatto, che ne so. Vabbè, avanti Marco. Sì, a proposito di QRM, proprio ieri stavo ascoltando vecchie registrazioni su quel sito dei tempi di Paoletto, no? Erano registrazioni fatte da qualcuno di notte, no? Ma ti assicuro che c'era una pulizia, cioè di notte c'era un silenzio, non avevi bisogno né di squelce né di nulla, sembrava quasi di essere senza antenna, da quanto era silenzioso il baracchino a quei tempi. Adesso invece con limitatori switching di computer, di TV, cioè c'è tanta di quella roba elettrica, elettronica, anche queste lampadine qua, queste lampadine LED, soprattutto quelle cinesi, fanno tanto di quel rumore, e lo senti tutto al baracchino, senti i ronzini di tutti i tipi, i flusci di tutti i tipi, oppure motori tipo phon, è presente quel rumore forte, elettrico, c'è di tutto di più. Invece negli anni 80, soprattutto proprio a metà anni 80, la notte era un bijou e riuscivi proprio per la silenziosità assoluta, anche con un portatile, e voi, mi pare anche Giulio l'ha fatto, Gianni, dice che col portatile parlava nei paesi vicini, perché c'era una pulizia allucinante in 27, è vero? Gianni, rispondi tu l'avevi fatto. Sì, sì, è vero, c'era una pulizia allucinante, a parte il fatto che c'erano sempre portantisti, quello di gioco si sa che non si poteva parlare, in certi canali, infatti io selezionavo i canali e andavo dove c'era gente tranquilla, perché i canali erano tutti pieni, ascoltavo chi c'era, prima e poi entravo. Non entravo mai in canali dove c'era gente rissosa, roba così, non mi piaceva. Buonasera. Ah, i cavattappi. Ah, è tappato di vecchia. Tappato di vecchia. Ragazzi, mi è successa una cosa molto brutta. Che è successo? Tornando da fuori, dopo ho visto la gazzosa, me ne è uscita la ruota. Me ne è uscita la ruota. Ma vado più avanti. Ho camminato col disco per 20 metri, sono sceso per terra e sono trasmesso il mio logo per Rai. Sono il GPS, ho chiamato i carattristi e mi ho portato la macchina poi in campagna. E ho chiamato il geomeccanico per portarglielo a lui. E non ti sa corso di nulla, ma fra c'è. No, proprio una volta hai detto, di uscita sei bloccato sul motorrai. E sentivo rumore strano, forse un po' mitragato, tu, questa cazzo va, non è bucata, tu. Me faccio un'altra curva, cazzo, che esce la ruota. No, non ci credo, cazzo. E sarà da me, ma non male che era quella di dietro, non era quella di davanti. Quella lì davanti di destra, a 600, io sto guardando la 40 però, sono riuscito a drizzare la macchina e bloccarla. Cazzarola, ma io ho capito quella di dietro, la macchina è un po' pericoloso, ti sbanda la macchina. Stava andando piano, però sto dicendo, quando io sento un muro strano io cammino piano, ho fatto arrivare a casa, ero vicino a casa, 2 km. E vabbè, poi ho messo il triangolo a 150-200 metri, questo paraculo si mette a corda lontano, mi metto con la mano così e mi rompe il triangolo. Mi sono avvicinato, ma cosa cazzo si vede? Ma poi si è già rotto, brutto pezzo di merda, lo messo io nuovo, non me l'ha rotto, aspetti, faccio voi la targa, ti do la cazzo in cuore e tanto, se ne è fuggito. Oh, io, perché non mi hai chiamato tu? No, c'è il carattere, cosa potevi fare già? Non sai fare niente. Quello già è vero, non si può rimettere. Ma io non ho capito come è riuscita, si è sbullonato, che cosa? Allora, il meccanico al telefono mi ha detto, niente di strano, che qualcuno ti stava rubando i cerchioni, ha mollato i rami, sono stati disturbati e sono scappati, poi tu hai preso la macchina e piano piano hai perso i burloni. Proprio che non sta già arrivato qualche attentato. Allucinante, è anche pericolosissimo, pensa a seria velocità. Io lo so già che potrebbe essere. Se hanno smollato i bulloni, quello si vede detto lì, se sono smollati, se sono smollati i bulloni cazzo si smollano così, eh. No, i dadi, no i bulloni, i dadi, quindi perché interno il bullone capite dentro, capito? E quindi poi si sono spezzati per col peso, senza cosa manteneva. Comunque chi mi ha fatto attentato quello è colpa di Falcone. Poi. Incredibile, mi seria velocità in rettilineo. Per carità, meglio non pensarci. No, allora, io con 46 anni di patente non ho mai avuto, non è successo mai una cosa del genere. Ho sempre la brillante idea che quando sento un rumore strano, se sono a 160, rallento il corpo, vado a 30-40, non di più. Gianni, ma tu cosa intendevi come rubare i cerchioni? Rubare i cerchioni o le borchie che coprono? Tutta la ruota. Cerchione, c'è il cerchio in lega, capito? Mi smuovi il bullone, ti prendi la ruota, la metti su quattro cantoni, le ho già visto io macchine così, e messe su quattro cantoni e rubati le ruote. Ah no, scusa, io stavo pensando a quelle cose di plastica che metti per coprire, che non devi mollare nulla però. E quella è plastica, già hai capito, che c'hanno il bordino in metallo, crepo roba del genere, ma lì non bisogna smontare nulla. Invece no, se i cerchioni in lega, quelli fanno gola, La patata, certo, copri il bullone. Quelli che qualcuno chiama pantane invece che pantane, pantane. Eia. E quelle me l'hanno già rubate a me, all'ufficio delle entrate, tutte e quattro. Costa 15 euro l'una, ho detto cazzo per ricomprarle. 60 euro me le rubano di nuovo, tanto qua non è più pareggio della così. E quindi si appiedi tu, Niava? Purtroppo sì. E poi pure con la mia compagna, meno male che non sei spaventata. Ciao, vado via, dai, io vi saluto, ciao. Ciao a tutti, mi hanno chiamato per la cena. Ciao Tonino, Gianni e Marco, ciao, alle prossime. Ciao Giulio, Marco, non so per piacere anche tu, ciao Tonino, con carica. Vabbè, prendi per i saluti a Giulio, dai. Ciao Giulio, di nuovo, ci sentiamo con carica avanti, Marco. Spesso ho parlato in due, tu e Gianni ha dito veloce, ma anche Tonino non ha perso i riflessi. Riprendi Marco, saluta. Ciao Giulio, dai, sentiamo, sì, caspita, le 8:30, sarebbe l'ora del caffè, però non ne piglio caffè, roba calda non ne voglio più, a meno che non me lo faccia raffreddare, me lo prendo freddo da frigo, mi. Il caffè alle 8:30, ma va bene che tu mangi tutte le ore qui. Sì. Lui sta pranzando adesso. Dico di notte di poi la magna, boh. Marco io, a me pare che tu bisogna mettere la sua pacchina. No, no, però se vado su questa strada io sono, per i dolci sono maniaco. È una cosa, cioè potrei pagarla cara mi fra 10 anni o anche meno, chi lo sa, per la glicemia. Per ora è a posto. Però facci piano, che dolci sono fantastici. Ma cavolo, caspita, non fumo, non bevo, non trombo, fatemi mangiare almeno, no? è più grave di tutti non trombare. Vabbè, per come sto, sempre in salute, non aggiungano manco di quello. Non aggiungano proprio. Preferisco mangiare, ormai ho posso dirlo, ho appeso l'uccello al chiodo. Ai ai ai, ma che ti fai frate allora? Come si dice per i guantoni di box, no, l'ho appeso al chiodo, io l'uccello ho appeso al chiodo. Allora ti devi chiamare non più Marcolino ma Ignazio, così dicono, fra Ignazio col culo nello spazio. Marco, sì, quando trovi quella che ti fa risvegliare di colpo, che ti fa rivivere. Oh, funziona tutto, già funziona tutto, è che, mamma mia, già lo sai come sono io, no? Le cose impegnative mi mettono ansia, mi rompono le scatole a uscire tra le sere, no, piuttosto 50 euro, via, una botta e via. Ascolta, che ti calmenevi per essere solo a far cose. Ma lo stavo ascoltando ieri, ma lo stavo ascoltando ieri, un pezzo di quelli scelti dai tempi Piero, Piero era la nemesi di Paoletto, quel pezzo era storico. Poi è entrata la madre, te la ricordi com'è? Ti dai un piccolo delinquente. Poi Piero infatti ha detto, signore se è situazione scende il mutante vi do su un faccio scolaggioni. Poi in un altro pezzo gli ha detto, dice, aspetta com'era? Dice lui anziché fare il filocchio se ne va ai giardini e la madre a voci, no, lei non ha proprio nessun diritto di dire di togliersi al baracchino, si può cambiare lei canale. Quasi a pisciare le risate, e scommetto che no, c'è più ricchi di poco in quel momento, dica. Mi l'MP3 tu. Cioè? Tutte le registrazioni di Falcone, cioè. Tutte. Allora. Certo, conserva che quello vale. Quello è storico, Marco lì, al museo lo mettiamo. Ricordati che c'è il sito, con tutte le cassette di allora. Io so qualcosa di registrazione, nel senso. E quando l'ho fatto sentire a Piero, sai cosa mi ha detto? No, quello non sono io, sei tu. Ma se la botte in due, cosa dite? Dite, Marco. Capito, però trago. Hai capito che faccio squillare il telefono? E lui diceva, vai, mangiati un brodino di marmo. Mi ha rotto! Vaga, oh, iaia. Ma guarda, un po'. E quindi adesso Tonina, accompagnata l'accompagnata. No, la compagnia mia è qua, che sono andato a prendere io. Portare a casa mia e poi domani sera devo accompagnarla. E poi ho detto, stasera sono incardinato, se no ho preso un taxi per uscire un po' a tappa e poi vediamo. Se non c'è mezzo con cos'hai? Cosa? Se non c'è mezzo come i... Allora mi ha sentito, chiamo un taxi e esco, per me non ce l'è. Ah. E qua a mezzo ce ne sono a me. Quello vicino a casa sono tutti amici a prenderlo, c'ha due macchie, ma mi ha detto il problema che c'avevo. Poteva dire, prendi l'appunto e poi. Invece manco guardi, abbia l'uccidente la tua vita. Vabbè, accompagnati la devi la pulire. E poi non c'è problema, la troviamo in mezzo, non preoccuparti. Chiamo mio nipote, la facciamo e l'accompagniamo. Chi chiama? Sì. C'è qualcuno che chiama a basso, già, guarda. Avanti, chi fa bene? Boh, io non capisco. Marco, ripeti, non riesco a capire cosa lì. Abbassa il volume, Tony. Aspetta, mi sentite, ha detto avanti. Quello che aveva tua moglie, ammazza sopra la macchina. Pronto. Parti dalla frequenza per il vostro operatore, motore remoto. Ma che era fa? Eia! Marco, io mi ha mandato. Io qui che modo la contero. Ma se è pronto quanto è tempo? Tutto maragnotta. Io non so quanto è troppo glielo dico. Grazie. quel rutto era di padre Francesco, me lo ricordo sempre. Famiglia Fora, abitanti via Cedrino, che era Pidozzi. Guarda che entra la madre qua dopo un po', qua gli viene quasi un ictus, mi dice, aspetta che urla, vedrai, mi. Tanto dura poco. Alla fine. Già, hai sentito? Sì. Va bene, ci sente? Sì, con pelo drago ce l'ha presa. Sì. E beh, sto fuori da più. Sì, appare bene. Io parlo bene con quella ragazza e tu, capito? Con quella puttana che ma forse. Come on. me, qui, questa cosa può fare giù via, tu? Ehi, dovrebbe essere agli sgoccioli, dai. Sì, sì, quando c'era Piero ci passavi anche tu, eh. Lo so. Perché Piero parlava sempre con me, parlava. Credo che se sta finendo è imminente. Thank you. mamma mia, da incubo, guarda. Incredibile come abbia resistito tanti anni lui. Gianni. Sì, aveva semmai Luca oppure a sentirlo gridare. Poveraccio, quanto lo facevano incantare per Oga. Che cattivi che era. E poi ci beccava sempre a me la massa di rimania. Eia, sì, perché parlate con Piero? Ma ci sono certe serate terrificanti, quando c'era qualcuno più cattivo di Piero, molto più cattivo. Mamma mia, 1-3-1, quella è stata storica. E tu te l'ascoltavi e la ridevi, Marco? Vabbè, pensandoci adesso, poveraccio, in effetti già ne ha passato. Spero che non ci desse mattana anche a noi, ci portante in tutti i canali, ci metteva, anche se non eri tu, ti cercava, dava il tuo numero di telefono, capito? Alla fine ti portava proprio a mettere la portante per vendicarti, cosa ti dico? Marco Mano non è uscito un infatto, se poi hai cagliato tutti gli altri. Sì, se non vedeva un infatto mi ficava ne a tutti, Meno male io non ce l'ho mai in quella combriccola, io ascoltavo il buco. Allora, quello è l'indice di tutte le cassette, dalla 1 alla 9. Sono spezzoni di qualità più o meno brutta, digitalizzati, vabbè, non da me, non è roba che ho fatto io. Quindi spezzoni, ogni tanto piange, ogni tanto fa i peli, gioco i peli, ogni tanto urla, soprattutto urla. Poi c'è qualcosa a castroccare, si mette a cantare. Io penso che mio cugino aveva la ragazza che poi era la moglie di suo padre, che abitava sotto. E lui diceva, Antonio, ma cosa hai fatto? E ha detto, chi siete senza il video? No, io ascolto tu. Io devo fare incazzare perché lui rompe le banda. Dice, quello lì viene un infarto, mi raffa già a me. Comunque Tony, al di fuori della 27 però, magari non lo mandare, ascoltati della cassetta 9. Marco, Faccone, Piero e Casino. È un po' lunghetta, ricordati. Mamma mia, quella lucina, anche sovraondulazioni ci sono, però è un tipo. Terribile, terribile proprio. Tutti all'ascolto, Gianni, anche tutti. Ma è quello che abbiamo dato su Slovenia, c'è? Sì. Sì, è un sito che qualcuno ha creato, non io, e ha radunato un po' registrazioni recuperate, rastrellate un po' a destra un po' a manca. E già c'è anche quella, Gianni praticamente si è fatto tutti gli MP3. Gli MP3 li puoi anche scaricare anziché suonarli e metterli in un CD, in una chiavetta, che ne so. Insomma, quella pizza poca che tu mi hai mandato a me, c'è un bel po' di roba lì. Sì, in certe qualità, che ne so, la qualità di molte è discutibile. Certe hanno, per esempio, quelle lì avevano qua, oh, Piero usciva bene, Piero aveva un Superstar 360 FM, che c'è grosso modo tipo questo, era bello, limpido, niente amplificazioni eccessive, però poi hai visto, calmo lui, e quello smaniando. Prima più c'aveva le CD 69 canali, e usciva bene lo stesso, che c'era anche il fratello Mario Bertariccio proprio. Poi ha capito Mario Marecchini, già che poi siamo venuto io al GS5000 e poi era sempre calmo, era tranquillo, mi si scolava, e chi ci cantava di più? Oh ragazzi, forse le nome dai che forse non lo. Dai, ci siete più tardi fa caso. Ciao Gianni, ciao Marcolino, ma le prossime state a vedere. Ehi, ricordatemi, ascoltati quella lì, quella a metà, cassetta 9. Quella intitolata, non mi viene, Marco, Faccone, Piero e Casino, quella lì, quella è veramente, è folle quella. Ok, dopo l'ascolto. Eia, ciao Tony, ciao. Comunque, ciao Gianni, dal senno di poi, cioè vabbè, finché sei ragazzino, poi capisci che era una persona malata. Appunto, solo che Paoletto era cattivello anche, cioè più magari cercava di farlo uscire, non di farlo distrarre, più te ne diceva alle spalle. Per esempio, ai tempi di Modigliani, che lo portava alle partite di calcio, lo portava qui, lo portava lì, a me aveva detto di persona, quando l'avevo conosciuto, anche Modigliani, la moglie, pacari dai, insomma, più cercavi di farlo uscire da questo ostracismo del baracchino, più te ne diceva dietro. Quindi era un po' malignetto alla fine, Paoletto, e poi si prendeva quello che gli capitava. Sì, non ragionava. A me faceva pena da allora, infatti io l'ascoltavo, le prime volte ho riso, però poi quando l'ho sentito fare giù con la cacca mi sono messa a ridere la prima volta, poi però ho capito chi era e quando l'ho fatto sedere in macchina, ho detto io andiamo a farci un giro, pensavo che fosse una persona con problemi, la volevo aiutare, invece capito, era lui. Mi sono andato a lavarmi la macchina, quando mi sono inchinato ho trovato con gli occhi attaccati al vetro, doppio ridendo. Dove io dire che sei uscito con me in frequenza? No. Cazzo, torno a casa, io c'ho il baracchino in macchina accesa e sento ah, sono uscito, dopo con chi? Con doppio E tutti quanti, cazzo già, e cosa l'hai fatto? Ma fa ancora, cazzo. Sì, le solite battutine, così, dai. Eia. Vabbè, certo, giustamente poi la sorella gliel'ha tolto perché rischiava un ictus a quei livelli. Vabbè, una volta aveva detto anche la madre, dice, tanto dice... dice se succede, dice lo dico a tutti che sono stati l'IGB a far morire mio figlio, capito? IGB? Sì, dice se succedeva che veniva davvero un ictus, quella dice tanto dice se succede lo dico a tutti che sono stati l'IGB, come lo diceva lei, no, dice a far morire mio figlio. Teoria, che c'è la madre quando ci suo figlio a vedere per esempio quello di Ugigua? Io, cioè, prima da ragazzino, vabbè, ti comporti come un ragazzino, poi però pensi se, cioè, ti immedesimi, se avessi un figlio così, che modula il baracchino, immagina tutto quello che devi sopportare, poi c'era gente anche che lo voleva picchiare, cioè, cosa vai a picchiare lui, poveretto? Che poi era tutto timido e verticale, non era aggressivo come il baracchino, capito? Vabbè. Sì, avveniva con la testa bassa, come si è presentato da me il giorno che ci avanti a farci un giro in macchina. È venuto con la testa bassa, ho detto, fa come si con la sul lungo. Guarda, se io dovessi definire Paoletto, a quei tempi era un misto, una specie di clone, tra Celentano e Teo Teoccoli, una cosa del genere, l'aspetto, no? Tipo Franco, pari. Sì, però, sì, tipo Celentano e Teo Teoccoli, una specie di ibrido, capito? E ne hanno dovute sopportare, per carità. Poi c'era qualcuno che da latte dolce gli aveva estorto soldi, no, insomma cose un po' bruttine. L'hanno portato a mangiare l'altro, ci hanno tenuto il resto, l'hanno messo il Buttalax nella minestra e si è cagato tutti i pantaloni. È perché Lollo l'ha invitato a casa sua e gli ha fatto mangiare un panino pieno di marmellata alla sativa, c'è il rischio di fare venire anche un'enterite o roba del genere. Quello sono già scherzi più bastardi, il Gutalax nella bevanda, vabbè io non... Persino allora non, quegli scherzi non li ammettevo un po', è roba che può far male al fisico. Cioè, io ho sentito dire di addirittura una boccetta di Gutalax messa in terra dentro la bottiglia di cos'era gassosa aranciata, questo l'hai sentito dire sempre. Cioè, però che hanno fatto, poi gli hanno legato i pantaloni con gli elastici perché se no li scendeva dai pantaloni, per scendere in macchina gli hanno legato i pantaloni con gli elastici. Mamma mia, chissà che fiaggo. E la volta in terza cartello te l'hanno raccontato che c'aveva il cappello da cowboy, cazzo, aveva un sombrero. Entrava nella cabina, la cabina tornava indietro, il buco gli dava il colpo alla faccia. Ma il telefono a tua madre, se non si preoccupa, lui ci ritornava, buona sul colpo. era la volta di Sassari Vecchio che mi ha dato l'appuntamento e si è vestito da fantasma a casa di lui, dice che correva e toccava i piedi di parte per la sedere quando stava correndo. Sì, tutte cose sentite. Quello è il fantasma, l'avrei voluto vedere correre. Mamma mia, che lui sai, era abbastanza mesto nel muoversi. Certo, non avrei voluto essere nei panni dei genitori, soprattutto della madre. A me una volta, quel baracchino lì, quel portatile, lo voleva lui. E mi ha detto che mi dava, che il baracchino ci aveva lui, io se non mi ricordo, l'ultimo dei uno forse, o l'ultimo dei due forse. E lei mi dava quello lì. Siccome lo sentivo che ci va bene, quello lì, se già me lo disinfetto bene. Cazzo, sono andato a casa sua e il padre ha coricato la lettera già malata. E mi ha detto, figlio mio, lo sai io quanto ne potrei comprare di questi baracchini portatili, ma non ne compro perché se lui va attraverso la strada parlando al baracchino qualche macchina lo mette sotto. Scusami per quello che ha fatto da parte sua, però non fa, dai, io ne potrei comprare non uno, no, 100, ne potrei comprare 1000, però non ne compro perché lui poi si distrae attraversando la strada, magari parlando al baracchino lo mette sotto qualche macchina. Come questi di adesso con lo smartphone, attraversando, sì, magari sulle strisce, però il codice dice che tu devi guardare a destra e a sinistra prima di passare, addirittura è vietato comunque attraversare con lo smartphone addirittura in mano, non solo all'orecchio, per evitare distrazioni. Invece questi anche fuori dalle strisce attraversano con lo smartphone all'orecchio guardando, non guardano nemmeno. Altro gli ho detto a uno, devi guardare, non c'entrano le strisce, devi guardare. Ma è inutile parlare al vento. Allora, lui ha avuto tra i tanti, ha avuto anche quello che avete nominato prima, cioè il Lafayette Texas. Lui lo chiamava il Texas, non riusciva a dire Texas e diceva Texas. Ha avuto il Concorde 2 della Multimode, dell'AM International voglio dire, scusa, Concorde 2. Sì, tanti ne ha cambiati i baracchini, però per normale usciva sempre bene di radio, se ti ricordi. Poi una volta gli era stato venduto addirittura un 200 canali che aveva 80 sotto, 120 sopra, praticamente non potevi più scappare da nessuna parte, ti avrebbe inseguito ovunque, tant'è che qualcuno ha protestato a tal punto con chi gliel'ha venduto, che chi gliel'ha venduto è andato a casa sua, gli ha restituito i soldi e si è ripreso il baracchino, lo sapevi sto fatto? No, so che lo fornivalisce di queste cose. No, tutt'altro, un'altra persona gli aveva dato i 200 canali. Era una specie di Major Echo, una cosa del genere. E lì non potevi scappare da nessuna parte, ti seguivo ovunque. E hanno protestato a tal punto che sì, la persona, di cui manco ricordo il nome, gli aveva restituito i soldi e ha ripreso il baracchino. Vabbè. Marco, ora non attivino le vado in bar. Eia. Oh Marco, ci sono. Eia, guarda, io sono in mutande, vabbè, pantaloncini, e c'ho un caldo, parlando mi è venuto un caldo che non ti dico. Adesso mi ritiro un po' di roba stesa e poi mi accendo la TV, dai. Anche io la devo ritirare. Mi sono preso l'anguria, perché avevo caldo anch'io. Eia. Sì, ma il caffè poi non ne ho preso, perché no, non ne voglio, ho mangiato una di, come si chiama, panna cotta, buona, quella è pronta però, non cameo quella da fare, quella pronta, buona, molto più buona di un budino diciamo, e anche più dolce però. Bene, detto ciò, sì, sono proprio in calore, anche perché il sole che avevo preso quei giorni lì, mi sentivo il volto in fiamme, anche il torace in fiamme, proprio sentivo la fronte calda, che se andavano a farmi la misurazione col termometro infrarosso sicuramente segnava positivo, ed era la radiazione solare, capito? La radiazione al sole. Capa gara. Vabbè. Attenzione a guidarti qualche insolazione. Oh, poco già. In realtà esposto al sole per la bronzatura sarò stato massimo 10 minuti d'orologio. Ma nemmeno. Poi per il resto ero in acqua e poi vabbè anche in acqua il sole lo becchi. anzi in acqua ti frega anche di più. E poi sotto l'ombrellone, all'ombra, io non amo troppo il sole, mi piace stare in acqua e poi. E domani mi sarebbe piaciuto, ma troppa gente, troppo bulotto, no. La domenica veramente proibitivo. Poi hanno finito anche gli eventuali esami di scuola, quindi c'era ancora più gente. Vai presto o te ne vai via a mezzogiorno? Non riesco già, per i problemi di... Allora, io piuttosto che andare la mattina, cioè andare col fresco, andare via col caldo, preferisco andare tipo alle 2, 2:30 di pomeriggio, arrivare col caldo ma andare via col fresco. Capito? Così quando sei già stanco, c'è più fresco, riesci a prepararti tutto meglio, viaggi più tranquillo anche, più fresco in macchina. Ma le ore più belle sono dalle 8 sino a mezzogiorno. Certe volte il mare è anche più calmo di solito, poi si agita un po' fine serata, però questi giorni bene o male è quasi calmo, dai, quasi calmo. Devo vedere il meteo, mare Sassari. Vabbè, comunque domani non andrò, casomai faccio roba in casa, devo lavare piatti, devo fare altre cosette. Poi ci abbiamo da fare un bel di roba tra dentista, devo passare dall'endocrinologo a farmi rifare il piano terapeutico, e poi tutte roba, casini di notai, per parenti vecchi che avevamo a Taranto, un macello, guarda. Poi dobbiamo chiarire questa storia del commercialista, perché adesso ci facciamo il 7:30 precompilato, il commercialista mi dispiace per lui, ma lo dobbiamo accantonare. Perché? Sì, intanto ti arriva il 7:30 precompilato, inutile foraggiare il commercialista già, per quelle fesserie che abbiamo, che non abbiamo ormai. Ma te lo fai tu il 7:30? No, tutto online, te lo... Aspetta, non lo so, lasciami a dire adesso, non mi sono addentrato, io so che è precompilato, credo che sia da firmare e pagare, tutta roba da richiedere online, credo. No, io il precompilato l'ho fatto da poco e l'ho fatto, diciamo, al CAF. Credo che abbia nominato quello CAF, solo che mi pare che anche lì si paghi, a meno che mamma pensionata non abbia agevolazioni oppure per l'età. Allora, se sei iscritto paghi 25 euro mi pare, se non sei iscritto 35, una cosa del genere. Eia. Sì, importante che sia contenuta la spesa, se no tanto vale tenersi il commercialista, come ho già detto io. Va bene. Dai già, ti lascio. Ritiro queste due cose, poi mi accendo la TV e posso collassarmi sulla sdraio, ok? Ci sentiamo le prossime. Ciao già, buona serata, buon tutto. Ciao Marco, aspettato, vai a guardarti a madre natura, va. Non mi dire che c'è Bonolis, come si chiama? Ciao Darwin. E allora serata di culi. Ciao. Ciao Gianni, ciao.